Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, programma che inizia adesso dalle ore 20 fino alle ore 21:30, ma andiamo prima con il brano che è sigla di questa trasmissione. Bene, questo era il brano Retribution dei Behind Enemy Lines, che da mesi e mesi, e anzi direi qualche anno, chissà se cambieremo, comunque è la sigla di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste, ma adesso andiamo all'ascolto di questa band belga, dal loro primo album datato 2011, loro sono i Link e questo è il loro album Duster. If they release the order. that would be released here. Anytime radioactivity is released, people are very afraid. That's why the Japanese have increased their evacuation zones steadily through the day. And it's largely due to fear. That radioactivity is a terrible fear-relating factor. But I believe that it's not likely that they're going to see health hazard creating levels of radioactivity, not with what we know right now. We'll be right back. E rimaniamo ancora all'ascolto di questa band belga, dal loro album datato 2011, loro sono i Link, questo è il loro album, primo album di esordio, che si chiama Duster. Loro sono, come già detto, i Link. Ciao a tutti, un saluto a chi ci ascolta da Radio Onde Furlane per questa puntata del 23 marzo, di giovedì 23 marzo 2023. Di nuovo un saluto appunto a chi ci ascolta da Radio Onde Furlane in diretta sulle 90 in FM, la radio che ci ospita qui dagli studi di Udine. Un saluto a chi ci ascolta da Radiazione il venerdì e tutti quelli e tutte quelle che ci ascoltano in podcast o in streaming. Dunque, partiamo un po' con col blocco informativo e controinformativo di questa sera. Magari lo avrete già saputo, magari l'avrete anche già ascoltato questo contributo che manderemo fra qualche secondo, ma non importa, perché comunque sono cose che è importante diffondere a tutti quelli che si riesce a diffondere. Un contributo appunto riguardo alla sentenza per il processo al corteo del Brennero del 7 maggio 2016, dove appunto fu convocato questo corteo a livello nazionale. Ci furono delle assemblee preparatorie, molti compagni anche da qui dalla nostra zona parteciparono, e finì insomma con un con delle cariche, con delle risposte alle cariche, eccetera eccetera, e adesso siamo alla fase già dell'appello, della sentenza, della procedure repressive, quindi, ed è emerso appunto, come spiegherà il compagno adesso nel contributo che rimanderemo. Sono 123 anni complessivi di carcere, distribuiti su una trentina di imputati e imputate, molti anche sono incensurati, e nonostante questo, come verrà spiegato, non è stata applicata la riforma Cartabia sulle forme alternative di pena. E niente, più di dire solidarietà a tutte le compagne e compagni condannati. Noi sì, non vi ripeto il comunicato che trovate sul rovescio, che comunque verrà ripreso anche in questo contributo che stiamo per mandare. Ciao a tutti e a tutte. Abbiamo fatto un piccolo resoconto riguardo a questi 123 anni, una piccola diminuzione dei 150, che comunque è ben poco consolatoria, perché stiamo parlando di pene dei 2 e 5 anni. Ci puoi un po' raccontare quella che è la situazione, un piccolo resoconto, e anche che cosa significa di questi tempi le pene ricevute per un corteo? Sì, allora di sicuro è una sentenza emblematica dei tempi che corrono. Nel senso che 123, secondo un giornale addirittura 129, comunque insomma, ben oltre il secolo di anni di carcere per un corteo contro le frontiere, sono qualcosa di significativo. C'è stato un leggero abbassamento rispetto al primo grado, dove già era caduta comunque l'accusa di devastazione e saccheggio. Però insomma, spalmato su una sessantina di imputati, alla fine insomma l'abbassamento delle pene è stato piuttosto esiguo, e tenendo presente che era un processo con rito abbreviato, per cui le pene erano già scontate di un terzo, e quindi insomma 123 o 129 anni di carcere per un corteo sono indicativi dell'epoca in cui siamo entrati. Un altro elemento è anche che c'è stato il rifiuto di poter accedere alla cosiddetta riforma Cartabia. Esatto, anche questo merita una riflessione, nel senso che il giorno della sentenza era stato formalmente posticipato per permettere a imputati e imputate di valutare se accedere alla cosiddetta riforma Cartabia. Una parte degli imputati e imputate ha fatto questa richiesta, però è stata rigettata per tutti. E se per alcuni il pretesto era quello dei precedenti penali o della cosiddetta pericolosità sociale, per altri sostanzialmente incensurati e come argomento di fondo che valeva un po' per tutti, era la mancata abiura da parte dei processati nei confronti delle proprie condotte di quel giorno, di quella manifestazione, il che vuol dire proprio che quella logica apertamente premiale che sta caratterizzando sempre di più la magistratura di sorveglianza, e voi a Torino ne sapete qualcosa, è ormai parte integrante anche dei tribunali ordinari, il che vuol dire che il post-scritto in corpo 4 che non si legge di questa cosiddetta riforma Cartabia è che non vale per gli anarchici. Che è una delle cose principali che si sta affermando nella giustizia, come dici bene, non solamente attraverso la magistratura di sorveglianza ma anche quella ordinaria, e che viene richiesto anche il ravvedimento dell'accusato. Quindi per accedere a, per esempio, delle pene sostitutive devi anche in qualche modo dimostrare di tornare sotto l'egida del padre Stato. Una cosa che in questi ultimi anni torna prepotentemente, lo torna maggiormente, probabilmente per la nuova epoca, quella in cui siamo entrati in maniera prepotente negli ultimi anni. Ecco la questione coronavirus, ecco la questione della guerra. Senz'altro, una cosa tecnica, perché non è detto che chi ascolta lo sappia, questa cosiddetta riforma Cartabia avrebbe sulla carta lo scopo di decongestionare le carceri e quindi di aumentare il tetto di anni sotto i quali è possibile avere misure sostitutive, cioè quelle che nella magistratura di sorveglianza sarebbero le pene alternative, quindi arresti, detenzione domiciliare, affidamento in prova, lavori socialmente utili. Se con la legge precedente sopra i 2 anni non si poteva accedere ad esempio alla detenzione domiciliare, ma anche lì poi la discrezionalità dei singoli magistrati di sorveglianza faceva un po' il bello e il cattivo tempo. Con la Cartabia questo tetto è stato spostato fino ai 4 anni. Ebbene, in questo caso anche compagni e compagni che avevano meno di 2 anni o poco più di 2 anni e che hanno fatto queste richieste se le sono viste respinte. Ed è una tendenza sempre più aperta, sempre più sfacciata, negazione dei 45 giorni di cosiddetta liberazione anticipata perché uno non si è ravveduto, carcere anche per condanne sotto l'anno, e questo è, come dire, in linea con quello che sta informando l'intera società, dalla scuola al luogo di lavoro. Tu devi dimostrare innanzitutto che sei disponibile ad accettare le condizioni date e ad integrare il cosiddetto sistema di valori dominanti, e a partire da quello qualcosa ti viene concesso, altrimenti c'è un altro binario per i non ravveduti, per gli insuscettibili di ravvedimento, che è il carcere. Per cui, insomma, un altro elemento che salta agli occhi è che in questo dispositivo di sentenza hanno deciso che per almeno una trentina di persone in futuro potrebbero aprirsi le porte del carcere. Più in generale, come abbiamo visto in questi 3 anni, in modo plateale e sfacciato, i cosiddetti diritti sono concessioni condizionate a tutta una serie di atteggiamenti, disponibilità, buone intenzioni, eccetera, che vuol dire che la potenza coercitiva che è aumentata da parte dello Stato in questi anni si rovescia non soltanto nelle strade, nell'atteggiamento della polizia, nel controllo, nella repressione di piazza, ma diventa parte integrante della stessa macchina della giustizia. Sì, infatti lo dici bene, a parte la questione delle strutture premiali, questo assetto da guerra, lo Stato che oramai non nasconde più l'elmetto sotto il grosso cappello del welfare e dei diritti che magari ha accompagnato i decenni precedenti, si mostra nel suo assetto più belligerante, sia nelle concessioni magari dei servizi sociali, come avviene nella maggior parte dei casi, devi appunto dimostrare di essere in qualche modo eticamente pulito per ottenere qualche tipo di bonus come quelli che sono stati dati negli ultimi anni. Se vuoi una concessione, un aiuto in questi tempi di magra, devi dimostrare di avere un lavoro, per esempio salariato, di essere in ordine con i pagamenti, e questo è il lato che riguarda la vita ordinaria, ma si ripercuote poi anche all'interno degli assetti carcerari, all'interno del fatto che appunto se vuoi chiedere una misura alternativa devi essere pronto ad abiurare quello che hai fatto, quindi non si parla più semplicemente di reato in sé, ma si entra all'interno di un'altra ottica, che è quello in pratica di questa specie di avvallamento etico che il cittadino deve dare, questa specie di dimostrazione di meritare quello che gli viene dato, che in un'economia come la nostra, un'economia della mobilitazione totale, trova il suo senso attraverso anche la parola guerra. Non c'è dubbio, difficilmente si possono capire questi additamenti repressivi se non si parte dal fatto che siamo in guerra. Che siamo in guerra è una condizione tanto esplicita e lo diventerà sempre di più quanto ai noi generalmente rimossa. Si sa che siamo ai bordi della terza guerra mondiale, ma si fa fatica a trarne le conseguenze del caso. È uno scenario completamente diverso rispetto al passato. È la prima volta che la NATO, da quando è nata, dall'immediato secondo dopoguerra, si trova coinvolta, sia pure indirettamente per procura, in un conflitto non asimmetrico. È una cosa ben diversa bombardare l'Iraq, la Libia, la Jugoslavia, eccetera, con una simmetria di forze schiaccianti, oppure dichiarare guerra alla Federazione Russa. E questo vuol dire che tutta la macchina tecno-economica si sta preparando ad uno scontro aperto e dispiegato. Questo vuol dire innalzamento delle spese militari senza nessun limite di bilancio e intervento massiccio nei settori chiave da parte degli stati, ma anche un'irreggimentazione senza falle del cosiddetto corpo sociale, nel senso che chiunque sia suscettibile di diserzione deve essere messo all'angolo. Quindi tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni, dalle inchieste particolarmente creative, per dir così, contro il sindacalismo di base, agli arresti domiciliari, agli studenti che hanno protestato contro l'alternanza scuola-lavoro, per arrivare al 41 bis imposto ad Alfredo Cospito e anche questa recente sentenza del Brennero, sono tutti segnali del fatto che l'asticella del consentito si è drasticamente abbassata e ogni forma di conflitto non negoziato deve essere punita in modo esemplare, perché siamo in guerra. Bisogna, come dire, rendersi conto di questo e far diventare questa consapevolezza parte integrante delle proprie prospettive. Una sfida difficile ma necessaria, anche perché negli ultimi anni la mobilitazione esercitata sul corpo sociale è stata continua, quasi una caratteristica pre-guerra, quello che abbiamo visto per esempio che è ruotato intorno al 2021-22, intorno alla questione per esempio del Green Pass, la dismissione d'emblée di tutta una serie di diritti di cittadinanza per buona parte della popolazione italiana, ha già portato una mobilitazione che assomiglia a un terreno bellico a cui non era abituata. Quindi ora è più difficile probabilmente svelare, cercare di togliere questo velo da una guerra che è diventata poi effettiva, è diventata una guerra guerreggiata. Sarà nostro compito cercare di entrare nei prossimi anni con delle pratiche e dei discorsi giusti che riescano a togliere appunto questo velo che giustamente descrivevi. Siamo all'ascolto di questa band inglese dell'area di Londra, loro sono gli Unfixed e questo è il loro album datato 2014, secondo ed ultimo loro album. We'll be right back. Bene, di nuovo qui in voce, volevo solo dire che il contributo andato in onda era preso dalla trasmissione Macerie su Macerie di Radio Blackout di Torino, che ringraziamo. A proposito sempre di questo discorso dei confini, delle frontiere, sì, lì c'era un discorso da parte dell'Austria di alzare una barriera, un muro insomma sul valico, lì sul passo del Brennero, e quel corteo là del 2016 fu proprio organizzato per protestarlo, ma anche per attaccarlo concretamente. A proposito di questi periodici tentativi da parte degli stati di alzare muri e di dividere, di fare insomma il filtro tra chi è si merita di attraversare il confine, chi no, c'è un aggiornamento, una notizia del, visto che siamo in campagna elettorale, non sono stati capaci di fare niente di meglio che dare questa notizia, e un partito che ha il governo nella regione Friuli Venezia Giulia, arriveranno nei prossimi giorni, generico così, e questa era notizia di lunedì 20 marzo, di lunedì questa settimana, 65 fotocamere, attivazione immediata, e verranno distribuite alle forze dell'ordine, delle questure di Gorizia, Trieste, dei comandi provinciali Guardia Finanza, Carabinieri, sempre Trieste e Gorizia, perché verranno posizionati nella boscaglia carsica di quello che è rimasto dopo che è andato tre quarti in cenere, per secondo loro identificare intercettare, stanare questo famoso, famigerato verbo, parolina per il quale siamo andati a processo noi personalmente, e stanare, intercettare i passer, come se il discorso fosse di spostare la responsabilità, di lavarsi le mani, di dare tutta la colpa a qualcuno, non gli stati, che sono loro la fonte di questo disastro, di questo assassinio, di questo macello, che succede sicuramente con maggiore risalto mediatico sul Mediterraneo, evidente, ma l'altra branca è proprio sulla rotta balcanica, che gli immigrati per attraversarla ci mettono degli anni, a forza di essere rimbalzati indietro, se riescono a uscirne vivi, possono anche rimanere uccisi anche loro, anche lì, solo che lì si fanno, sì, è una cosa meno eclatante, perché succede nel mezzo, insomma, nei vari confini con la Serbia, la Bosnia, la Bulgaria, eccetera, eccetera, eccetera, e lì si fa sparire quello che succede, le informazioni, si manda la bara ai parenti, è chiuso lì. Questo era un discorso. Un altro discorso, invece, riallacciandosi alla questione della guerra, adesso io andrò a leggere, semplicemente perché non c'è molto da aggiungere, è significativo, è un comunicato dell'USI, l'Unione Sindacale Italiana, e contro guerra, stati, eserciti e armi, un po' una nota un po' così, di secondo me, di dissonante dal mi sembra dissonante dalla solita tiritera che anche l'USI e che ha fatto in questo anno: anarco-sindacaliste e sindacalisti contro guerra, stati, eserciti e armi. Una guerra senza fine sta coinvolgendo e trascinando il mondo in un conflitto mondiale, distruggendo territori, massacrando popolazioni, con alle porte il rischio della catastrofe nucleare. In questo scenario la disinformazione imposta da poteri e media, la propaganda di parte, sono un aspetto fondamentale per il prolungamento e l'aggravarsi del conflitto. Come compagne e compagni anarcosindacalisti e sindacaliste, militante nell'USI, Unione Sindacale Italiana, facciamo alcune riflessioni e abbozziamo alcune indicazioni di lotta antimilitarista. Il conflitto non nasce nel febbraio 2022 con il massiccio attacco russo all'Ucraina, ma viene preparato assai prima, favorito dalla volontà di espansionismo della NATO verso l'est, europeo e asiatico. La svolta si concretizza nel colpo di Stato 2014 in Ucraina, in cui le formazioni militari naziste prendono il controllo delle piazze e hanno un ruolo decisivo nella rivolta, e negli immediati avvenimenti successivi ai danni delle popolazioni russofone. I linciaggi, la strage nella casa dei sindacati di Odessa, le persecuzioni contro una parte della popolazione contraria al nuovo potere, fino ai bombardamenti e all'attacco contro il Donbass. Ovviamente l'invasione russa del 2022 fa esplodere una situazione di guerra totale col coinvolgimento dei paesi della NATO. Il riemergere di una presenza nazista o comunque ad essa vicina nella società ucraina non è fenomeno trascurabile, né può essere paragonato alla presenza di gruppi nazisti all'interno di ogni paese esercito, in Italia come in Russia. In Ucraina vi è un fatto nuovo e inedito, un neonazismo filoeuropeo, sdoganato, armato e appoggiato da UE e NATO, che entra nelle istituzioni militari ufficiali con i suoi feroci battaglioni, per poi controllare e dirigere importanti settori dell'esercito e dello Stato. Il tutto con il riemergere in Ucraina dei miti nazionalisti, del collaborazionismo con il nazismo negli anni 40 e con la figura del criminale Stepan Bandera ridivenuto eroe nazionale. In una realtà in cui tutti i protagonisti in campo, eserciti, finanza e stati, siano essi stranieri o locali, sono gli aggressori e tutti i popoli e le classi più deboli sono gli aggrediti, occorre lottare per costringere le potenze a porre fine alla guerra. Ogni invio di armi è un crimine che prolunga un conflitto che non può essere fermato in questo modo e che porta solo morte. Per questo le scelte della NATO, della UE e dello Stato italiano di armare e stare al fianco di un belligerante diretto e usato per i propri fini, sono altrettanti crimini di parte in causa nella guerra e vanno sabotati e ostacolati. Così come l'aiuto militare e la partecipazione diretta alla guerra nelle file di un esercito, tesi sponsorizzata anche da alcuni gruppi che si autodefiniscono antagonisti, di sinistra o libertari, è un controsenso autoritario e guerrafondaio rispetto ai principi di sempre antimilitaristi di libertà e di lotta di classe. Stiamo con il popolo, sia ucraino che del Donbass, contro la logica militare, a fianco della diserzione in massa dagli eserciti in campo, siano essi russi, NATO o ucraini, situazione favorita in questa fase dalla difesa a oltranza di una mattanza generata dalla volontà dello Stato di favorire situazioni indifendibili nell'epicentro del conflitto. Boicottiamo la macchina militare e le armi, chi le produce e chi le invia. Contro tutte le guerre, disfattismo, renitenza, diserzione, boicottaggio, sabotaggio. Anarcosindacaliste, e anarcosindacalisti. Voglio solo così fare una, no, per concludere questo volantino qua, ben diverso dalle, dagli schieramenti, dalle tifoserie, dai dogmatismi di certi altri compagini militanti, scusate, libertari e anche così le varie tribù, varie parentele, insomma, dell'anarchismo, che hanno, insomma, attaccato con livore chi osava dire, per esempio, che non si poteva neanche parlare di Ucraina come, insomma, realtà che ha fomentato, insomma, con una politica aggressiva verso il Donbass e le altre zone, insomma, russofone. Questa cosa qua era anche vietato solo dirla in certi ambiti, e invece è uscito questo volantino dissonante. Evidentemente, insomma, sì, c'è anche qualcuno dentro l'USI che pensa con la sua testa. Siamo all'ascolto di questa band piemontese, l'area più o meno è quella di Torino, insomma nelle circostanze limitrofe a quella cittadina. Loro sono gli Always e questo è il loro ultimo lavoro discografico, l'ultimo album uscito l'anno scorso, 2022, I tuoi abbracci segnano la pelle. Questo è il titolo dell'album per questi Always. Corre, immagini del posto di Bene, teniamo in sottofondo questa band dell'area di Torino, loro sono gli Always, questo è il loro ultimo album datato 2022, I tuoi abbracci segnano la pelle. E ora invece passeremo ad una band francese che invece è esistita all'incirca nella seconda metà degli anni 90. E loro sono gli Upstand, appunto band definita fastcore, e tra l'altro noi facciamo ascoltare dei brani loro in una uscita discografica postuma, La Scioglimento, che è una specie di compilation che raccoglie insomma i loro migliori brani. E vabbè, come già detto, Upstand dalla Francia. Nuovo in voce, sì, in parola, in discorsi. Oggi è stata pubblicata sui siti la versione integrale della dichiarazione di Alfredo Cospito all'udienza del riesame della scorsa settimana, cioè per la precisione era il 14 marzo, e in tribunale del riesame a Perugia. E ne avevamo parlato e Alfredo era collegato in videoconferenza. È stato chiesto di dare massima diffusione questa dichiarazione che ha espresso Alfredo. Innanzitutto volevo iniziare con una citazione del mio istigatore. Il nostro ordinamento ha introdotto quella figura di isolamento mortuario che è il 41 bis e che per certi aspetti è più incivile anche di questa mutilazione farmacologica. Si parlava della castrazione chimica. Questo per dire che il nostro sistema non brilla di civiltà. Carlo Nordio, 28 marzo 2019. Questo è stato il mio istigatore della lotta che ho iniziato. Non avrei mai pensato di arrivare fino a questo punto. Ho sempre trovato ridicolo il melodramma, amo di più la commedia, ma così è andata. In fin dei conti, siamo o non siamo il paese del melodramma, e quindi mi tocca finire in bellezza. Però se ci penso, qualcosa di ironico c'è. Sono l'unico coglione che muore nel progredito occidente democratico poiché gli viene impedito di leggere e studiare quello che vuole, giornali anarchici, libri anarchici, riviste storiche, scientifiche, senza trascurare gli amati fumetti. Ammetterete che la cosa è paradossale e anche un po' buffa. Non riesco a vivere in questo modo, proprio non ce la faccio. Spero che chi mi ama lo capisca. Non ce la faccio a rendermi a questa non vita, è più forte di me, forse perché sono un testone anarchico abruzzese. Non sono certo un martire. I martiri mi fanno un certo ribrezzo. Sì, sono un terrorista, ho sparato ad un uomo e ho rivendicato con orgoglio quel gesto, anche se, lasciatemelo dire, la definizione fa un po' ridere. In bocca a rappresentanti di stati che hanno sulla coscienza guerre e milioni di morti e che a volte, come uno dei nostri ministri, si arricchisce col commercio di armi. Ma che vogliamo farci? Così va il mondo, almeno finché l'anarchia non trionferà al vero socialismo, quello anti-autoritario e antistatalista, vedrà finalmente la luce. Campa a cavallo, direte voi, e anch'io. Per adesso gli unici spiragli di luce che vedo sono i gesti di ribellione dei miei fratelli e sorelle rivoluzionari per il mondo, e non sono certo poca cosa, perché sono fatti col cuore, passione e coraggio, per quanto sparuti e sconclusionati possano sembrare. Detto questo, volevo spiegare il senso del mio accanimento contro il regime del 41 bis. Qualche giurista credo l'abbia capito, ma in pochissimi hanno compreso. Il 41 bis è una metastasi che rischia, e di fatto sta minando, il vostro cosiddetto stato di diritto. Un cancro che in una democrazia un tantino più totalitaria, e con il governo della Meloni ci siamo quasi, potrà essere usato per reprimere, zittire col terrore qualunque dissidenza politica, qualunque sorta di ipotetico estremismo. Il tribunale che decide la condanna alla mordacchia medievale del 41 bis è del tutto simile a quello speciale fascista. Le dinamiche sono le stesse. Io potrò uscire da questo girone dantesco solo se rinnegherò il mio credo politico, il mio anarchismo. Solo se mi venderò qualche compagno o compagna. Si inizia sempre dagli zingari, dai comunisti, dagli antagonisti, teppisti, sovversivi e poi le sinistre più o meno rivoluzionarie. Come potevo non oppormi a tutto questo? Certo, in maniera disperata, e per un anarchico, proprio perché non abbiamo un'organizzazione, la parola data è tutto. Per questo andrò avanti fino alla fine. Per concludere, come disse, se ricordo bene, l'anarchico Henri, prima che gli tagliassero la testa: quando lo spettacolo non mi aggrada, avrò pure diritto a abbandonarlo, uscendo e sbattendo rumorosamente la porta. Questo farò nei prossimi giorni, spero con dignità e serenità per quanto possibile. Un forte abbraccio a Domenico. Domenico, che al 41 bis di Sassari ha iniziato lo sciopero della fame con la speranza di poter riabbracciare i propri figli e i propri cari, nella mia forte speranza che altri dannati al 41 bis spezzino la rassegnazione e si uniscano alla lotta contro questo regime che fa della Costituzione e del cosiddetto, per quanto vale stato di diritto, carta straccia. Abolizione del 41 bis, abolizione dell'ergastolo ostativo, solidarietà a tutti i prigionieri anarchici, comunisti e rivoluzionari nel mondo. Grazie fratelli e sorelle per tutto quello che avete fatto. Vi amo e perdonate questa mia illogica caparbietà, mai piegato, sempre per l'anarchia. Viva la vita, abbasso la morte. Alfredo Cospito, 14 marzo, in videoconferenza dal carcere di Opera. We'll be right back. Bene, quelli che abbiamo ascoltato adesso, ma che comunque sentiremo ancora e stiamo ascoltando in sottofondo, sono i Peggio Punk, band della primissima ondata degli anni Ottanta. Loro sono di Alessandria. Questo è il loro EP datato 1985, Ci stanno uccidendo al suono della nostra musica. Sì, torniamo in parola, in voce, e ancora per l'ultimo, diciamo, blocco di stasera, e sull'anticipazione avevamo scritto i casinisti degli anni 60, i casinisti, ancora su un vecchio articolo contro il vittimismo anarchico, ed era sempre lo stesso articolo di Alfredo Cospito, ripubblicato sul quindicinale anarchico Bez Motivo, senza motivo, dell'ultimo dicembre, di questo dicembre scorso, in occasione così dell'anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano. Sono sicuro che ne avevamo fatto cenno, ma mi sembra velocemente, e sarà veloce anche stasera, lo lasciamo, diciamo, questo come sullo sfondo. È un articolo che merita di essere considerato, diciamo, di cui si merita di parlarne ancora da questi microfoni, secondo me, in maniera più attenta. Per stasera ci accontentiamo di che cosa? Ispirarsi da parte, o meglio, di questo cambio di prospettiva che proponeva Alfredo in questo articolo di qualche anno fa, tra l'altro, e meglio, togliendo dalla crosta, diciamo, la crosta del vittimismo, cosa consisterebbe in quella reazione, diciamo, in quella reazione pilotata di cui subirono l'effetto anche molti anarchici in quell'epoca. Si parla della strategia della tensione, per cui poi appunto calò questa cappa, si diceva anche in precedenza, questa cappa che portò ad interpretare un ruolo che puntava a ispirare pietà, ecco. In particolare, ecco, c'era il caso di Pietro Valpreda, che era appunto una vittima, che fu candidato anche da una lista del manifesto alle elezioni politiche per tentare di raggiungere una liberazione provvisoria, e eccetera eccetera. Poi questo appunto anche a livello psicologico diventò una paura di totale di affrontare qualunque tipo di situazione, con insomma sempre la paura di essere vittime di chissà che, non so, non dico complotti, ma di chissà che forze oscure, che potenze superiori, ecco, a livello di sì, sia di stati sia di stato, diciamo, visibile, che livelli invisibili dello stato. Sembrava che tutto, poi questa cosa qua dilagò, ci fu anche un filone, c'è ancora un filone appunto fra 10 virgolette complottista, che si applica anche dalle nostre parti, diciamo, in area così anarchica. Invece sia a livello storico sia a livello così di esperienza diretta, ci sono e come delle, insomma, delle, non dico spunti, ma ci sono delle cartine al tornasole, no? Di questo castello che non tiene, no? Di questo castello così dell'anarchico povero vittima e innocente, eccetera eccetera. E quali sono? E a livello di attacco, diciamo, a livello di attacco sicuramente va ampliato un po' lo sguardo a prima del 69, prima del 68 anche, a tutti gli anni 60, dove ci fu l'unica forza che tenne in piedi la conflittualità, fu proprio quella anarchica. In particolare c'era un gruppo a Milano, ma cioè, sicuramente sono esistiti anche altri che non sono, di cui non si è mai scoperto, insomma, da chi era formato, ma anche in, diciamo, Roma, anche in altre parti, perché appunto hanno colpito sia Milano sia Roma, che era direttamente collegato con i gruppi spagnoli, con i gruppi antifranchisti, anarchici, che resistevano alla dittatura franchista. In particolare appunto questi di Milano poi furono senza nessuna prova, senza nessun indizio, senza niente, furono intercettati da calabresi, ed erano in particolare erano la Elian Vinci Leone e Giovanni Corradini. Questi due compagni erano appunto collegati con le FI, non so come si legga in spagnolo, Federazioni della Gioventù Libertaria Iberica, che era appunto loro erano collegati in rete con questo gruppo internazionale anarchico Primo Maggio, si chiamava, nel 60, si parla degli anni 60, intorno al 65, 62, 65 fino in avanti, 68 eccetera, hanno compiuto diverse azioni, ma c'è anche, ad esempio, che non c'entra più con questi due, ma c'entra con un rapimento, celebre rapimento di un viceconsole spagnolo in Italia, compiuto da Alberto Tomiolo, che è un poi insomma ha fatto tutto un suo percorso, comunque è un veronese. Giorgio Bertani, che era aveva una casa editrice di un certo livello, e altri rapirono questo viceconsole per fare pressione sul governo italiano, ma soprattutto sul Vaticano, in merito alla situazione, insomma, della condanna a morte di tre anarchici spagnoli, appunto, sotto la dittatura di Franco, no? Quindi, riepilogando questa storia del vittimismo, bisogna tirarla via come una crosta, insomma, ritornare all'origine, ritornare insomma a una dimensione più autentica del vivere, insomma, l'anarchismo in una maniera più genuina, senza questi mille sempre continui scrupoli, mille attenzioni, intellettualismi anche, se vogliamo. Un altro esempio che fa Alfredo in questo alle origini del vittimismo è proprio, dico proprio, ma insomma è per me importante, Giorgio Bertoli. Gianfranco Bertoli, volevo dire. Gianfranco Bertoli, tra l'altro era veneto di origine, fu protagonista di un attentato al ministro dell'interno Rumor, che andava a inaugurare un busto appunto a Calabresi, quindi era il, non sbaglio, 17 maggio 1973, sono quasi 50 anni, e lanciò una una bomba a mano israeliana, dell'esercito israeliano, perché lui veniva da un'esperienza in un kibbutz israeliano, prende su una bomba a mano, sale su una nave, ovviamente non una nave passeggeri, una nave di quelle così, si intrufola in questa nave, sbarca in qualche maniera in Italia, si dirige verso Milano, va in via della, come si chiama, fate bene fratelli, dove c'era la questura, nel cortile, tira questa bomba a mano, purtroppo un carabiniere intercetta la bomba, la devia, va a finire sulla gente, su persone che non c'entravano niente, e Bertoli non scappa, si lascia catturare. Viene catturato, appunto, viene imprigionato, subisce il processo, si fa i 25 anni, insomma, l'ergastolo, quello che era, di carceri speciali, si fa la Sinara, si fa Porto Azzurro. Adesso andiamo veloci perché qua il tempo passa, no? Ma ci sarebbe anche qua tanto da fermarsi. Il discorso è che lui accettò, Gianfranco accettò tutto quello che gli arrivò, il fatto che la sua azione andò a finire male, cambiò completamente di senso, se la prese sul groppone queste vittime innocenti, ma non rinnegò, insomma, di essere, insomma, il suo gesto non lo rinnegò, non tirò fuori delle scuse di dire chissà chi era. Invece quello che successe, indotto da questa atmosfera di vittimismo eccetera eccetera, fu che la maggior parte dell'ambito, insomma, anche anarchico, si spaccò, ma molti dissero, cioè, diciamo, la versione ufficiale, invece lasciamo perdere l'ambito anarchico, ma la versione ufficiale fu che Gianfranco Bertoli era un informatore, era un infiltrato di questi gruppi fascisti controllati dai servizi segreti italiani. E come posso dire, infame accusa, Gianfranco alla fine ne morì, perché, insomma, già era un personaggio un po' ai margini, e questa roba qua letteralmente lo ammazzò, perché non se ne riuscì mai a liberare, no? Di questa accusa infamante. E lui ha tenuto un carteggio con Alfredo Maria Bonanno, dove cercò di ricostruire un po' con fatica tutto quello che gli era successo, cos'era il suo pensiero. Aveva in progetto di fare un un'opera, insomma, di esprimersi chiaramente su questa cosa qua. Purtroppo, sì, dopo un paio d'anni, insomma, di corrispondenze, arrivò la morte, insomma, per a 60 mi sembra 67-68 anni morì Gianfranco Bertoli. Comunque, appunto, l'edizione Anarchismo hanno raccolto a titolo di testimonianza questa corrispondenza. In particolare dice Gianfranco: mi ha colpito apprendere che ti porti addosso i residui del trattamento sbirresco subito al tempo dell'episodio di Bergamo. E poi, certi compagni, fra virgolette, si sentono in diritto di esibirsi nello squallido e grottesco spettacolo dei loro distinguo e delle loro prese di distanza, virgolette. Ma che ne sanno certi buffoni di quale sia il prezzo pagato da chi non vuole rinunciare a lottare? Io riconosco il loro diritto di restarne fuori, di non sentirsela di correre dei rischi, perfino quello di criticare certe scelte e discuterle. Ma chi paga di persona avrebbe diritto, se non alla solidarietà esplicita, almeno al rispetto. Neppure tanto arrivano, anzi, se del caso, arrivano a rendersi complici delle calunnie riversate addosso dai servi del potere. Ci sono due razze di anarchici: quelli che hanno provato la galera e sono comunque consapevoli di poter andarci a finire, e quelli per i quali una simile ipotesi è del tutto irreale, perché sanno di far parte del sistema, lo riconoscono e ci si riconoscono, seppur attribuendosi un ruolo critico, fra virgolette, di certi suoi aspetti. Niente, visto che anche i minuti siamo agli sgoccioli, concludiamo questa puntata, questa incursione, intendo, sulla vicenda di Gianfranco Bertoli, che ha rievocato anche Alfredo nelle sue ultime, così, prese di parola durante queste udienze a cui è stato ha partecipato in videoconferenza. E ci ritorneremo, una promessa. Per questa sera saluto tutti e lascio la parola a chi, insomma, sta dall'altra parte del vetro. Bene, sfumo e lascio in sottofondo, e ormai ci siamo ascoltati completamente questo album dei Oldways della zona di Torino, I tuoi abbracci segnano la pelle, album uscito l'anno scorso. Forse alcuni brani sono andati un po' in ripetizione durante l'intervento. Comunque, come detto, Always, tutto il loro album ce lo siamo ascoltati. E ora siamo proprio, come già annunciato, giunti al termine, i minuti conclusivi di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, e trasmettiamo dalle ore 20 alle 21:30. Inoltre, se volete riascoltare questo episodio, questa puntata, chiamatela come volete, o anche quella delle volte scorse, potete andare in rete e cercando zardinsmagneticsradio.noblogs.org potete riascoltare tutto. E inoltre, se volete scriverci, i nostri contatti sono questi due, diciamo, contatti per la posta elettronica: liberetutti@autistica.org, ripeto, liberetutti@autistica.org, oppure scrivendoci ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121, ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste Centro. E quindi, altra cosa, che andiamo all'ascolto di un brano, forse due, ma non credo, di questa band polacca. Loro sono gli Infecta, e il loro album è uscito nel 2003. C'è scritto così, probabilmente lo pronuncio malissimo, Przegrani, più o meno Przegrani. E va bene, ciao a tutti. Dovevo concludere dicendo un'ultima cosa. Ah sì, che saluto anche chi ci riascolterà domani venerdì, che saremo in replica su Radiazione, che è una web radio. Ciao a tutti e al prossimo giovedì.